Macedoni a 750 km di distanza, per cui sì, è uno con cui diciamo sono cresciuto insieme e abbiamo deciso di scrivere questo romanzo. E naturalmente potete immaginare la difficoltà di farsi 1000 chilometri e andare e 1000 a tornare quasi per una presentazione, per cui insomma un po' ci alterniamo, lui le fa magari se c'è l'occasione giù dalle nostre parti, o prova a farla qua. A Bologna ci siamo ritrovati assieme perché insomma per una serie di coincidenze, ma è stato fortuita questa cosa qua. E la faccia, dici qualcosa su di lui? Certo, sì, io volevo cominciare con il reading, tanto per introdurre con diciamo quello che abbiamo scritto. Serve a te, infatti immaginavo servisse a te. Questo lo serve a me. Esatto. Vi direi due parole sul posto in cui siamo, visto che non tutti vi conoscono, quindi magari è la prima volta pure insomma. Ecco, vabbè, il centro sociale Costa 18, autogestito e occupato dal 76, dall'estate del 76, che a metà degli anni 80 acquista la denominazione Cox 18, la X dei punk, perché arrivano ragazzi punk che prima erano stati in Correggio, dove sarà poi ospitato il virus. Locale storico della cultura punk milanese, e in questi stessi spazi riapre la libreria Calusca, che era nata ancora prima del centro sociale nel 71-72, che era sempre stata qui in quartiere ticinese, ma come negozio sulla strada. Poi per una serie di vicissitudini, fondamentalmente per l'aumento degli affitti, ha dovuto cambiare tre sedi e poi è stata chiamata dai compagni del Cox a riaprire qui all'interno, e ha assunto una denominazione nuova, Calusca City Lights, perché è collegata con la libreria City Lights di San Francisco, animata dal grande poeta padre della Big Generation, Lawrence Ferlinghetti. Questo piano, che è stato ristrutturato, prima qui c'erano i solai, è stato abbassato il pavimento ed è stato allestito come spazio dell'archivio Primo Moroni, perché Primo Moroni morirà nel 98 e in capo a 2 anni verranno iniziati i lavori per l'archivio. L'archivio Primo Moroni raccoglie tutti i materiali che Primo, gestendo la libreria, metteva da parte come significativi e da conservare, quindi libri sulle culture politiche del movimento, tutta la rivisteria autoprodotta, le fanzine, i fogli underground, la documentazione sulle carceri, insomma tutto quello che era legato alle attività del movimento di quegli anni, sia sul lato culturale sia sul lato delle lotte nei vari settori di intervento. La questione casa, c'è una grossissima componente qui legata alle lotte degli ospedalieri, perché tra i gruppi costitutivi proprio del centro c'è il coordinamento degli ospedalieri di Lombardia, che qui aveva la sua sede. Erano gli anni in cui erano scoppiate grosse vertenze, grosse lotte negli ospedali. Qui vicino c'è il San Paolo, lì l'Usi Sanità, era molto, da lì poi rinasce addirittura l'Usi. Ecco. Molto brevemente è questo, quindi i materiali che trovate qui sono quelli raccolti da Primo Moroni, più i materiali di altri fondi di compagni legati alla Calusca che sono stati donati e aggiunti. C'è un sito, il sito dell'archivio Primo Moroni, dove trovate le schede di tutti i materiali lavorati. Quelle scatole che sono coperte dal celofan sono le scatole che contengono i materiali propriamente d'archivio, quindi corrispondenza, bozze di libri, lettere dal carcere, appunti, che sono oggetto di lavorazione proprio in questi mesi. E invece il resto che vedete è la parte delle monografie, dei libri. Al pian terreno ci sono invece le riviste. Tutto quello che è stato schedato lo trovate sul sito dell'archivio, e li trovate anche le registrazioni degli incontri che vengono fatti. La lista sera domani verrà caricata sia sul blog di Conchetta che è sul sito dell'archivio, e poi bibliografie, percorsi di lettura, i PDF di materiali scansionati e così via. Ecco. Chi è interessato, magari prima si dà un'occhiata a quello che può servirgli sul sito e poi viene qui. Gli orari di consultazione sono gli stessi di apertura della libreria, quindi dalle 4 alle 8. Ecco, questo come poi se ci sono altre domande o curiosità, magari finita la presentazione se ne può parlare. Prego. Grazie. Allora, leggo in piedi perché probabilmente riesco a interpretare meglio questa cosa. Non è facile. Aspetta, cioè, se no dici, tu dici, motore, azze, ce la fai. Vai. La stanza è buia e piena di gatti neri. Si strofinano sulle mie gambe, poco sopra le caviglie, partono dal muso e continuano con tutto il corpo, fino alla coda. Mi accovaccio a terra, incrocio le gambe, uno sale sulla mia coscia sinistra, avvicino la faccia e sento il suo naso umido sul mio. Sono tanti, non riesco a contarli. Sono le porte della mia mente, si aprono sul possibile, e il possibile è tutto, tutto, vivere e morire. Non uccido più gli animali, non li mangio più, solo affetto e tenerezza, sempre che non diventino una minaccia. Ma quale essere può veramente minacciare un essere umano? Solo un altro essere umano. Punto. Le porte si aprono, piacere, dolore, qualcuna non la aprirò mai, ne sono certo, qualcun'altra spero di non doverla aprire mai. Nessuna porta si apre mai da sola, sempre con qualcun'altra. Ce ne sono alcune che sembra che le spalanchino tutte. Le porte aprono sulle tenebre eterne nelle quali le scintille possono brillare, scintille che possono sembrare addirittura stelle. Tenebre dove mostri ciechi combattono tra loro, tutti contro tutti, ognuno con la presunzione della felicità che potrà darmi qualora vincesse, ognuno sprezzante del tempo che disintegra qualsiasi cosa. Intrappolare l'esistenza nelle pochissime emozioni che mi danno piacere, isolarla in questi perenni ritornelli come il ciclo degli stati di una goccia d'acqua, non è roba da mortali. Dov'è che sta dormendo la rivoluzione? Un mondo più giusto e anche più bello, ma soprattutto è necessario. Che narcotici le hanno pompato? Si sa chi lo ha fatto e lo sta facendo tuttora. Non è la litania dove forze oscure e inconoscibili decidono le sorti del mondo. Le loro facce le vediamo tutti i giorni, sono sui media, sono lì, di fronte a noi, protette da bolle concentriche di potere, di silenzio, di affari, di soldi, di falsificazione, di manipolazione, di ignoranza e di stupidità. Mi sento come in guerra contro i titani. Prima di nascere nessuno ti chiede se vuoi sgobbare per vivere. Sì, sgobbare. Inizi a 6 anni a scuola. Non sono solo saperi, sono ordini. Come si parla secondo la grammatica e l'analisi logica, come si calcola, come lo si fa correttamente. Dal sapere potere della scienza al sapere potere dell'etica il passo è breve. Il primo passa dall'autorevolezza all'autorità, il secondo fa esattamente il contrario, solo che a differenza del primo genera ed è generato da campi di forze, di cui il logos è pura derivazione, puro effetto. Entrambi restano inesorabilmente costituiti da autorevolezza e autorità, tra le quali bascolano senza sosta, tessendo le trame sui telai della storia. Uno spazio a 4 dimensioni, sapere, potere, autorevolezza e autorità, dove le istanze egualitarie e libertarie consistono nello schiacciare la potenza sul piano sapere-autorevolezza, riducendo le dimensioni potere-autorità a fattori marginali e trascurabili. Dopo 60 anni che arrivi a quasi a 70 puoi andare in pensione, dopo aver lavorato 5 giorni ogni settimana del cazzo. Autorevoli studiosi e accademici confermano che potremmo lavorare solo 3 giorni a settimana per produrre la stessa ricchezza, in culo ai padroni. la distribuiremmo più giustamente, sì, più equamente, senza i padroni che se la scialano e le moltitudini di poveri che stentano, in tutto. Sgobbare per vivere, per sopravvivere. A molti il salario non basta manco arrivare a fine mese. No, non hanno le mani bucate, fanno i conti coi centesimi e sgobbano, spesso per arricchire pochissime persone. Esibire i figli come trofei, la rivincita della riproduzione sulla morte, come se si possa davvero vincere la morte, come se non morissimo già mille volte durante l'intera esistenza. Intanto devi questo, devi quello, non devi questo, non devi quell'altro. E lo sgorbo devi pure fartelo piacere, ti ci devi pure appassionare. Ti devi sacrificare sull'altare di Zapad Stakhanov. La chiamiamo vita e la chiamiamo pure intelligente. Solo un branco di imbroglioni truffatori può fondare lo Stato sullo sgobbo. E questi erano i meno peggio, quelli che ci dovevano salvare, venduti per qualche valigia di dollaroni. Delitto. Aula del tribunale, scranno del giudice, sopra la testa il simbolo della leggenda, la leggenda delle leggende, sopra la sua testa il simbolo del delitto, il peggiore dei delitti, delitto e sconfinata crudeltà, delitto e supplizio, simbolo della massima ingiustizia, la messa a morte dell'innocente, del più santo tra i santi, di Dio stesso per chi ci crede. Il delitto dei delitti fattosi culto, il delitto di Dio contro se stesso, fattosi culto e uomo. Il culto del delitto, il culto dell'ingiustizia sulla testa di chi giudica in nome della giustizia. Il delitto della giustizia che sana il delitto dell'ingiustizia. Giustizia senza delitto. Aula del tribunale. Il giudice ordina il nome per conto del delitto, dello stato di delitto, dello stato che è il monopolio del delitto, potere di vita e di morte senza poter essere a sua volta messo sotto processo, se non a costo del delitto. La responsabilità del delitto per lo Stato, la deresponsabilizzazione del delitto per la popolazione, doppia leggenda, doppio inganno, doppia trappola. Passano i giorni. Vado a trovare Rocco tutte le volte che posso. Anche più volte nella stessa giornata. L'unica cosa che si muove sono i liquidi che gli iniettano per alimentarlo con le flebo. Il resto è sempre lo stesso. Palpebre aperte, occhi che fissano il vuoto e nessuna risposta ai miei sguardi, alle mie parole, né alle mie carezze, né ai miei baci. Continuo a rimuginare su quello che ci eravamo detti riguardo alla fine della vita, nel caso in cui uno di noi due si fosse trovato in una situazione simile. Ma mai avrei pensato che sarebbe stato possibile, che si sarebbe mai verificato qualcosa del genere. Era la sua volontà, e io ho il dovere di rispettarla nel nome del nostro amore. Mi tremano le gambe e faccio fatica a stare in piedi. Che cazzo mi succede? L'idea di dare la morte al mio compagno non è una semplice idea, è diventata una necessità. La necessità. A casa ho le fiale di morfina che mi ha lasciato Mattia. Non ho scelta, devo farlo. La mattina successiva vado in ospedale, prendo l'ascensore che mi porta al quarto piano. La stanza è la numero 32. C'è un altro letto, ma è vuoto. Aspetto che l'infermiere, che fa l'abituale giro delle 11, finisca di controllare che i liquidi delle flebo scorrano regolarmente nelle vene di Rocco e che esca dalla stanza. Ho una giacca col cappuccio che mi copre addirittura la faccia, occhiali da sole, capelli raccolti e indumenti larghi. Conciata così non mi riconoscerebbe manco mia madre. Quello che sto per commettere è un crimine, ma si sa, il crimine è solo quello che è proibito dalla legge, e della legge me ne fotto. Non posso lasciarlo in coma a vegetare, gliel'ho giurato. Piango senza sosta, nella stanza sono da sola con lui, le fiali di morfina sono nella mia borsa. Non ho mai provato una solitudine o un'ansia di questo tipo, non ho mai fatto nulla di così terribile nella mia vita. Non auguro a nessuna delle persone che amo di dover sostenere questa prova. Non sono preparata. Rocco non è un estraneo, è l'uomo che amo. Chiudo la porta della stanza, tiro fuori le fiale dalla borsa e con un piccolo seghetto incido le 3 fiale che contengono ognuna 2 grammi di morfina. Stacco la parte superiore usando un fazzoletto di carta per evitare di tagliarmi col vetro della fiala. Con una siringa comincio ad aspirare il liquido della prima fiala. Lo inietto nella parte di gomma del deflussore. Ripeto la stessa cosa con le altre due fiale. Dopo qualche minuto sul monitor che mostra il battito cardiaco, vedo solo una linea piatta. Ho dato la morte a Rocco, dopo 13 anni della nostra vita passata insieme. Dopo tutte le risate, il sesso, i discorsi, le incazzature, i viaggi, ora non rimane che il ricordo e una tristezza sconfinata. Esco dalla stanza coprendomi la testa e la faccia col cappuccio della giacca. Non riesco manco a vedere il pavimento del corridoio del reparto dell'ospedale, tante sono le lacrime che escono dai miei occhi. Nessuno ha visto cosa ha fatto, lo so solo io. Fiocco di neve. Fiocco di neve, quieto cadere, senza soffrire, senza morire, senza far male, senza sapere. Diventi ghiaccio, duro e tagliente. Diventi acqua, scorri per niente. Dentro le tende, dentro nei corpi, colmi muscoli di forze e di forme, prima che il nulla li catturi per sempre, lasciando talvolta un singolo segno. Che cazzo ci dovete fare con tutta questa roba? Mi chiede Roberto. Non posso dirtelo ora, gli rispondo. Se tutto funzionerà ne sentirai parlare. Me la dai una mano? Certo che te la do una mano, ti conosco da una vita, sono sicuro che hai un'ottima ragione per farlo. Ma non sto per niente tranquillo. Dimmi solo quello che è necessario che io sappia. Dicevo, ho bisogno di sapere a che ora arriva il treno in stazione, quanto si ferma e a che ora riparte per il porto per imbarcare il carico e in quali vagoni ci sono le M9. Te lo ricordi, Zac? Mi fa Roberto. Sì, dai, Zaccaria. Certo, ne abbiamo fatti di pezzi assieme, ormai ne è passato di tempo, ma qualcuno dei nostri dipinti ancora lo vedo sui muri di questa città. Lavora alla centrale operativa dello scalo merci, mi chiarisce Roberto. Praticamente gli passano sotto al naso tutte le informazioni sui convogli. Lui ci può sicuramente dare una mano. Dopo due giorni vedo Roberto e Zac, fuori piove, entriamo in uno dei caffè del porto, il Covo del Camallo. Ci venivamo spesso una volta. Ramon, da quanto tempo? Mi dice Zac salutandomi. È un pezzo che non ci vediamo. Roberto ogni tanto lo becco, ma te molto meno. Lo sai, il lavoro... Roberto mi ha accennato qualcosa, ti servono informazioni. Che genere di informazioni? Anche a Zac dico il meno possibile, Zac ci rimane molto male. Non sa proprio cosa dirmi. Io insisto e alla fine mi dice che collaborerà. In nome della nostra amicizia e dei nostri ideali comuni. Quanto ai mezzi che giustificherebbero i fini, ci siamo sempre scontrati. Tranne quando da piccoli taggavamo i muri e li affrescavamo illegalmente, ma stavolta mi sorprende. Solleva meno ostacoli e questo è quello di cui ho bisogno. Meno ostacoli possibile, che quelli che intravedo già bastano e avanzano. In pronto soccorso l'ambulanza ha appena portato due manifestanti feriti. Il primo si è preso una manganellata in piena faccia, rischia di perdere l'occhio sinistro. All'altro gli hanno fratturato ulna e radio, oltre al trauma cranico. Si sarà riparato col braccio dal manganello e in un secondo momento sarà stato picchiato lo stesso sulla testa. Macellai. Fuori dalla porta dell'ambulatorio del pronto soccorso sono in tre quelli con la divisa. All'esterno altri due piantonano vicino alle due macchine con i lampeggianti accesi. I manifestanti sono in stato di fermo. La denuncia è in arrivo. Il tempo di insaccherare qualche foglio di carta con una marea di stronzate. Negli ultimi tempi la tensione si è alzata. Il livello dello scontro anche. È parecchio. Non le puoi prendere sempre, ti devi difendere, attaccare. Così dopo un bel po' di tempo sono cominciate a volare di nuovo le Molotov, che i sanpietrini non hanno mai smesso di farlo. Le piazze e le strade dell'acquisto ossessivo compulsivo se le prende il corteo. I bottegai sono incazzati, il cerpame griffato non si vende. Un giorno le assemblee dei lavoratori delle fabbriche delocalizzate e di quelle che stanno subendo la stessa sorte. Un giorno i lavoratori della logistica... contro le condizioni imposte dai dispositivi elettronici che spiano e valutano i loro ritmi. Tutto questo con gravi ripercussioni sul salario, meno pause, più produttività e più soldi. Hai una tendinite a causa del lavoro? ti fotti, più pause, meno soldi, e già ti va bene che non ti licenziano per ora. Un giorno si pensava che le macchine ci avrebbero liberato dalla fatica e in definitiva dallo stesso lavoro. Le macchine hanno finito per ordinarci il tempo e il ritmo del lavoro e della vita. L'orologio in fondo che diavolo è mai? La macchinetta che ordina il tempo, lo imprigiona, lo mette nelle celle. Il tempo per questo e il tempo per quell'altro. Vendiamo innanzitutto il nostro tempo, ma il tempo va lisciato. Via le celle, via le striature. L'unico tempo vero della vita è quello liberato. Che lavorino solo le macchine non si stancano mai, non si fermano mai, basta dargli l'elettricità, non gli viene voglia di scopare, di farsi un giro, di vedere amici, di ballare, di suonare, di dormire, di rilassarsi, ma quando le fate, quelle che fanno tutto da sole, senza umani al seguito, tutta sta scienza e sta tecnologia totalmente sprecate. Ma sì, ma me la piccio st'altra sigaretta. Però sto fumando troppo, mi tremano ancora le mani. Fisso il vuoto per riempirlo di fumo, di paure, di pensieri di vita e di morte. Sento che il mio corpo si sta trasformando. Aspetto un figlio. La mia mente oscilla come un pendolo tra passato e futuro, ma sono sempre in mezzo. Il prodigio della vita mi fa cogliere ancora di più la mia finitezza di essere umano. Ma qualcosa, un istinto primordiale, mi spinge a cercare di afferrare l'infinito, l'eternità. Per rifugiarmici. Che situazione di merda. Che poi chi se ne fotte dell'infinito? Una sortita ideale, un motto di pura volontà. Vabbè, intanto quello stronzo di Paolo continua a farmi imbestialire. È inutile anche starci a pensare, nonostante sia incinta al secondo mese, sta a blaterare che non sa se è pronto. Che se i suoi lo sapessero, gli farebbero dei problemi. Ma sto scemo. Maschi, vallo a trovare quello buono. Ce ne sono alcuni a cui di avere un figlio non frega proprio niente. La maggior parte di noi, invece, ce l'ha scritto nella carne e nelle ossa prima che nella mente. Anche se la nostra emancipazione passa inevitabilmente per la maternità o per la sua negazione come principio di non accettazione dei ruoli imposti storicamente a noi donne. Questa bambina o questo bambino, lo vorrei a tutti i costi? Non ne sono neanche così sicura, ma mi sta sulle palle che il mio compagno faccia l'evasivo. Almeno dimmelo un no, chiaro e tondo, invece di tergiversare e manco con stile. Dopo la laurea in scienze politiche, avevo cominciato a lavorare per il quotidiano L'Informazione, a tiratura nazionale. Sono stata brava, il giornalismo d'inchiesta mi ha premiato. Scovare e denunciare le porcherie di chi ha il potere mi ha fatto scontrare più volte col direttore. Era preoccupato del merito e della forma dei miei articoli. Mi chiedeva di continuo di ammorbidire il linguaggio, di evitare attacchi diretti, almeno verso i padroni del giornale, i loro finanziatori, i membri del governo e, naturalmente, il Vaticano. Devo fare sì il mio mestiere, ma senza pestare i piedi a nessuno. Che stronzata. Mi ripete la solita tiritera da vigliacco conclamato. Tenere i piedi per terra. Il mondo ormai gira così, non essere troppo idealista. E soprattutto che i nostri fottuti soldi provengono proprio da quel mondo verso cui io sparo i miei pezzi. Mi ha perfino minacciato più volte di licenziarmi. Non mi spavento. La verità è che sono stati soprattutto i miei articoli e le mie inchieste ad aver dato al quotidiano quella linea editoriale che gli ha permesso di vendere copie. Poi ci sono quelli un tanto al chilo che subiscono e si accontentano di tutto, ordini superiori inclusi, ma il giornale bisogna pur riempirlo. Proprio la mattina in cui il ginecologo mi conferma che sono incinta, il direttore mi consegna la lettera del consiglio di amministrazione del gruppo societario a cui appartiene il giornale, in cui viene formalizzato il mio licenziamento per incompatibilità con la linea editoriale. Non ho resistito, ho dato del caca sotto al direttore. Abituato ai miei modi, non ci ha nemmeno fatto caso. Si è limitato a prendere atto della decisione del consiglio di amministrazione e non ha provato nemmeno a chiedere di riconsiderare la decisione. Anzi, ha fatto pubblicare un articolo nel quale si è tentato di ridimensionare le gravi accuse contenute nell'ultima inchiesta che ho condotto sui fondi neri della Zaskra, una delle aziende del gruppo societario proprietario del giornale. Dunque, prima di spiegarvi un po' insomma di cosa tratta questa cosa, insomma, una mezza idea ve la siete fatta vi voglio dire delle cose che, insomma, mi sono fatto uno schema, perché io sono un pasticcione, quindi non vorrei dire le cose in maniera confusa, cerco di dirle nella maniera più ordinata possibile. Allora, sono delle riflessioni un po' sul lavoro che abbiamo fatto, un po' sulla, diciamo, sulla lettura, sulla scrittura in generale. Naturalmente manca l'altro autore, per cui, insomma, sentirete la metà delle cose che sarebbe il caso di sentire, credo, insomma, speriamo, insomma, una metà che sia rappresentativa, diciamo, di questo. Dunque, la prima riflessione che volevo fare è il fatto che, insomma, io penso che la scrittura, insomma, la lettura, che sono le due parti della stessa, dello stesso oggetto, siano un po' come la musica, no? Cioè, se a uno piace il reggae, suona il reggae, ascolta il reggae, se uno piace il metal, ascolta il metal, suona il metal, eccetera. E quindi suoni quello che ti piace suonare, leggi quello che ti piace leggere, e secondo me anche scrivere significa scrivere quello che ti piace scrivere, insomma, nella maniera in cui tu lo intendi, insomma. E qual è però la differenza fra la scrittura, diciamo, la lettura e la musica? È che la musica non porta mai all'orrore, insomma, a una forma di consapevolezza, è più una, come dire, un rifugio, che sicuramente la lettura è anch'esso questo, è anch'essa questo, però, diciamo, a differenza della musica, vabbè, scusate il pippone che mi sto facendo, però a differenza della, diciamo, della musica, la scrittura approda, diciamo, alla consapevolezza, e la consapevolezza consiste nel vedere l'orrore che ci circonda, insomma, e ci costringe a vedere, insomma, quello che, usando una metafora strautilizzata, è l'elefante nella stanza. L'elefante nella stanza, nel nostro caso, è l'ingiustizia diffusa, insomma, che esiste sia in questo paese, ma che riguarda, diciamo, l'intero genere umano. E questo orrore che si prova attraverso, diciamo, questa forma di consapevolezza, che a cui sicuramente la scrittura dà il suo contributo, è un orrore reale, non è Stephen King, insomma, cioè non è una roba finta, è una cosa reale. E, insomma, adesso non vi sto a fare la lista degli argomenti attuali che possono indurre a figurarselo, insomma, questo errore. E, diciamo che una parte grande di questa ingiustizia che investe il genere umano è sicuramente dettata dal fatto che ci sono poche persone che possiedono tantissimo, e un sacco di persone, tantissime, che possiedono poco. È proprio di qualche giorno fa, ma tanto poi queste statistiche ce le dicono, diciamo, ce le ripetono, diciamo, con una certa frequenza, il fatto che in Italia, per esempio, insomma, un paese democratico, eccetera eccetera, il 5% della popolazione ha la metà della ricchezza nazionale, questa è, cioè, 100.000 persone hanno la metà dei soldi del paese, insomma, ecco, questo è. E quindi questa cosa, diciamo, qual è la causa, secondo noi autori, di questa cosa? La causa di tutta questa ingiustizia diffusa, insomma, diciamolo, è il capitalismo. Comunque, all'interno della società esistono, diciamo, diverse forze. Ci sono delle forze attive, diciamo, le chiamiamo così, poi spieghiamo perché, che sono delle forze che affermano la vita e sono costituite da tutte le lotte di liberazione che possono esistere all'interno di una certa società, diciamo, che non sono, ovviamente, non sono all'interno, purtroppo, diciamo, o per fortuna, insomma, poi dipende da come si prende l'argomento, non sono delle forze istituzionalizzate, ma assolutamente deistituzionalizzate. Queste forze sono queste forze attive, quindi, che affermano la vita attraverso le lotte di liberazione, intendo ribellioni, rivoluzioni, rivolte, eccetera, sono delle forze straordinarie. In quale misura? Nella misura in cui escono fuori dall'ordinario, cioè l'ordinario è, diciamo, è è composto dalle forze delle istituzioni che sono delle forze reattive e non attive, tant'è che diciamo, l'istituzione è reazionaria quasi per definizione. Naturalmente queste forze attive, quindi che affermano la vita, in contrapposizione a quelle reattive che invece affermano la morte, che consiste nello sfruttamento, far perdere qualsiasi tipo di dignità a un lavoratore, per esempio dandogli 3 euro all'ora, cioè cose che non dovrebbero neanche esistere, ma purtroppo esistono, diciamo, si scontrano all'interno, diciamo, di questa società. Ora, che cosa, diciamo, si dimentica quando si parla, diciamo, della nostra, fra virgolette, civiltà? Cioè, quello che per noi rappresenta la nostra civiltà è il risultato, sono i successi che queste lotte di liberazione hanno ottenuto durante la storia. È quello che, diciamo, è la parte della nostra civiltà, sempre fra molte virgolette, che alla quale molti di noi sono affezionati. Ora, che cosa è successo? Che queste lotte di liberazione, non bisogna dimenticare, che sono state ostacolate dai poteri costituiti e le hanno, come dire, ostacolate e represse, oppresse nelle maniere anche più violente possibile e immaginabili, riducendo, diciamo, questi successi, relegandoli in questa forma commemorativa e facendo dimenticare quello che era la loro natura, che era una natura assolutamente non istituzionale, e anche il loro messaggio, perché diciamo ci sono queste conquiste che sono state fatte, di fatto poi in molti casi non vengono assolutamente attuate, come la parità dei sessi, insomma tutte queste cose qua che dice la Costituzione, eccetera. Oh. Fatta questa premessa, diciamo, noi ci siamo inventati questo romanzo. Questa cosa è venuta da Donato, che mi dice: va bene, allora scriviamo un libro sul fascismo. Insomma, diciamo, 161 significa AFA, che vuol dire azione antifascista, anti-fascist action. E DP, tanto qua posso dire, cioè, sta per Dio porco, semplicemente. E che naturalmente non potevamo mettere dentro al romanzo, perché quando ho chiesto a Peppe, mio amico avvocato, ho detto: ma senti, ma io posso mettere porco Dio nel romanzo? E lui mi ha detto: ma tu quanti libri hai letto dove c'era una bestemmia? Ho detto: manco uno. Vabbè, in Joyce c'è, porca Madonna, però è corsivato probabilmente. Viaggio lui... al termine della notte. Eh? Esatto. Viaggio al termine della notte c'è? Porco Dio. C'è porco Dio. No! L'ho letto, ma l'ho dimenticato. Ma perché è censurato da tutti? Allora, e quindi Peppe... No, non è che, vabbè, insomma... Vabbè, mo bisognerebbe parlare un po' di quello che sarebbe... Che non è. Comunque ha detto, comunque non lo abbiamo scritto per evitare che la congregazione, al titolo posso capire, la congregazione dei Carmelitani Scalzi ci facesse causa civile, insomma. Però insomma, durante la presentazione con insomma fra di noi lo possiamo dire. Quindi ci siamo inventati. Donato dice: facciamo questo libro, scriviamo un libro sul fascismo. Io ho detto: Donato, dobbiamo studiare, non ce ne frega un cazzo, inventiamoci una storia nella quale diciamo approfittiamo dell'occasione per scrivere delle cose sull'antifascismo, sul fascismo, eccetera, raccontiamo delle storie e però ci inventiamo una storia. E questo racconto è ambientato in un futuro molto prossimo a noi, potrebbe essere anche oggi stesso, diciamo, non ci sono molti sotterfugi o forzature narrative futuriste, ecco, diciamo, c'è poca di questa roba. E queste forzature che abbiamo introdotto per, diciamo, rappresentare una realtà ancora più distopica quella nella quale noi viviamo, sono delle forzature che non sono così fuori dall'ordinario, diciamo, da quella che è la storia almeno dell'ultimo secolo, insomma, non abbiamo esagerato in questo. tutto questo clima che viene descritto, diciamo, che noi presumiamo di descrivere nel racconto, nel romanzo, induce, diciamo, una parte dei protagonisti a compiere una scelta insomma estrema, e il romanzo si rivelerà, diciamo, distopico fino alla fine. Questo senza fare, diciamo, annunciare quello che accadono molte cose, sono molti, molti brani raccontati e basta, finito. Insomma, se mi volete chiedere qualcosa. Io ti vorrei fare due domande al volo prima di andarmi a fare un'altra birrettina. Alla prima buffa, se Zach è lo stesso tipo di Zach e la tromba degli articoli. Se viveva a Bologna e vi frequentavate, non lo so. Allora, grazie. Si tratta di andare indietro di tipo 35 anni. Io ho questo Zach che dici tu di Bologna, non so chi sia. Però quando io stavo a Bologna c'era questo Zach che aveva almeno una quindicina d'anni più di me ed era un fricchettone, fricchacchi, non lo so. E la seconda domanda è praticamente sta in quale fase della tua vita è nata proprio l'idea, la passione, la voglia di scrivere questo romanzo? Mai. In quale fase stai passando? È nata morta e l'abbiamo sotterrata. No, in realtà, allora, questa era una cosa che volevo dire, è che, diciamo, se non ci fosse stato il mio amico che mi avesse, diciamo, non è stata un'idea mia, io non avrei mai pensato di fare una cosa del genere se lui non mi avesse detto, oh dai, facciamo, che cazzo stiamo facendo, ma non ci dobbiamo mettere la canzone, non è semplice, è una cosa, boh, come facciamo? Avevi già fatto qualche prova di ma no, assolutamente, cioè, avevo scritto qualche cosa, ma qualche stronzata così, quelli che ti scrivi, che dici, questa cosa è figa, poi però diciamo, quelle cose che ti sembrano delle cose, che qualcuna magari fa delle cose. Ciao Gianna. Ciao. No, ho alzato la mano. Tanto siamo i mamme tettù, Gianna. Non è che... no, come avete fatto a scriverle? No, tagliato, sono ricresciuto addirittura. Come abbiamo fatto a scriverle? Avete litigato? Sì, certo, ovvio. Quando finisco? Beh, no, proprio a bestemmie no, però diciamo è stato... Vabbè, potevate almeno... Sì, a bestemmie. Allora, quando... A proposito di bestemmie, ti racconto questa stronzata che fa ridere. E a un certo punto ci sono delle pagine web che contano le parole, ok? Cioè tu ci metti dentro il testo e ti dice sono 70 parole. E quindi il nostro testo era 60.000 parole e poi abbiamo scoperto in un secondo momento che diciamo sopra le 50.000 parole è il romanzo, ecco, se no è novella, racconto. Bene, e poi c'era una statistica delle parole che ricorrevano di più. E io quella statistica, quella non la vidi in primis. Poi a un certo punto vidi la statistica. Non l'hai visto la statistica. No, allora a un certo punto vedo la statistica e vedo che la parola cazzo compare, cioè erano 250 parole, compariva 350 volte. Dai, facciamo una cosa, cioè, leviamone un po', cazzo. Cioè, leviamone un po'. Ma, leviamo un po' di ma cazzo. Perché in qualche pagina c'era... C'è qualche cazzo di trovo. C'era... E quindi questa è stata... a parte questa... A parte questa... Stronzata. Cazzata. Dunque, allora... Cazzata. Cazzata. Quindi che cosa è successo? Che, diciamo... Allora... La sensazione piacevole che ho avuto, che poi anche una induce uno smarrimento insomma notevole, nel senso che quando una persona scrive, questo l'ho sperimentato, magari senza che nessuno l'hanno già detto in migliaia sicuramente, però quando tu scrivi sei Dio. Cioè, quando tu scrivi, tu, diciamo, decidi chi è, cos'è, cosa fa, cosa non fa. Ed è, diciamo, una... Naturalmente questo ti, ti porta a uno stato di smarrimento notevole, perché cioè puoi fare tutto, ma poi qualcosa la devi pur scrivere, insomma, non puoi, diciamo. Ecco, e quindi ci siamo chiesti, ok, quindi abbiamo immaginato una, come dire, un nucleo centrale sul quale, che doveva essere, diciamo, il centro della storia, e poi abbiamo sviluppato altre parti in maniera, diciamo, quasi autonoma, senza, diciamo, il sistemarlo, diciamo, cronologicamente, fra virgolette, è stato un lavoro secondario. Cioè, prima abbiamo creato dei pezzi, ok, e poi sempre sfanculandoci, incazzandoci, no, dobbiamo scrivere così, no, questa roba fa cagare, no, così. Tutto questo naturalmente per telefono, perché Donato Di Bari sta a Manfredonia, sta a Milano, perché no, passato... No, ma avete, scusa se ti interrompo, sì. No, avete creato dei pezzi autonomamente, cioè avete creato la macro... Allora, abbiamo detto, ok, decidiamo che questa parte del racconto, questa cosa che raccontiamo, è la parte centrale del racconto. Se lo raccontassi ve lo spoilerei, però, insomma, cioè c'è questo personaggio, diciamo, per esempio, non c'è un protagonista, diciamo, non esiste il protagonista o la protagonista. Ci sono, il protagonista è l'antifascismo, che viene declinato in relazione alle scelte che fanno i personaggi nelle situazioni in cui si trovano, ok? C'è sicuramente un personaggio importante, principale, che è Rocco, che è quello attorno al quale gira una parte della storia, e che poi diventa la causa che determina la scelta di altre persone che fanno questa scelta, insomma, abbastanza estrema. E poi, vabbè, abbiamo detto, ok, ma che ne so, come possiamo parlare di quest'altra questione, okay, di quest'altro racconto possiamo mettere così. Quindi l'abbiamo introdotto scambiandoci i file Word. Ecco, sì, uno di voi, sì, io scrivo, te lo mando, tu, questo va bene, questo non va bene, questo sì, questo no, te lo rimando, quindi diciamo, facendo questa operazione, insomma, banale, che adesso è abbastanza semplice. Esatto, una volta... quanto tempo? Questa cosa l'abbiamo scritta in realtà in un arco di tempo davvero breve, io credo che in 7-8 mesi l'abbiamo scritto, non ci abbiamo messo tantissimo, infatti poi ho detto, ma che sei scritto? No, questo non si dice durante la presentazione. No, nel senso, no, e c'è stato anche il tempo e il modo di dimenticare, che io quando sono andato a leggere delle cose ho detto, scusa, abbiamo scritto, sì, ci abbiamo messo relativamente poco. Allora, l'abbiamo scritto. Poi, praticamente, vabbè, questa è un'altra storia che fa ridere. L'abbiamo mandato ai grossi, no? E una quindicina di editori grossi. L'unico che ci ha risposto, che quando Matteo ci ha risposto, ha detto, oh, è stato Adelphi, grazie, non siamo interessati. E gli altri invece non ci hanno manco cacato di pezza, e va bene, insomma. E poi praticamente come siamo riusciti a stamparlo? Siamo riusciti a stamparlo perché il mio coautore Donato Di Bari scrive delle favole, lui è buddista, e lui scrive delle favole illustrate da un'altra nostra amica, Maddalena Gatta, Gianna, tu la conosci, che pubblica con questo editore Di Bari della Quorum Edizioni. Abbiamo proposto a lui, diciamo, quello che avevamo scritto. Lui, la prima cosa che ci ha detto si potrebbe fare, però poi da quando ha detto si può fare a quando, siccome ha avuto dei problemi con la casa editrice, insomma, si è come si dice, c'erano due soci, hanno avuto dei problemi, insomma, hanno rotto la società, quindi, insomma, praticamente sono passati 12 mesi da quando ci ha detto si può fare a quando poi è stato di fatto stampato a luglio dell'anno scorso. E questo, non so se ho risposto. Sì, sì. Credo di sì. Ecco. Non so se... Gaia? Io? Come ti sei sentita a leggerlo? In una uccidevo Rocco e nell'altra ero incinta. Tra parentesi, Rocco è il nome del mio ex, quindi. Vabbè, no, no. Allora, naturalmente, come ben sapete, nell'arte è tutto voluto, non c'è nulla di casuale. Aiuto. Io ti so, ti sapevo, ti so e ti saprò. Dimmelo, se mi sa, dopo mi fa una lettura del futuro. Distopica. Distopica? No, distopica. Dai, grazie. Sì, già, sono incinta. No, è stato ci molto sono bello. No, dico la mia. Comunque, allora, i brani che ha letto Gaia sono di due donne differenti. Ah, ok. Non è la stessa. Una è Sonia e l'altra è Valencia. Sì, ci sono diversi personaggi, insomma. Beh, è carina, mi è piaciuta, mi colpisce molto questa cosa. Come noi negli atti quotidiani, nelle nostre relazioni, possiamo compiere atti antifascisti. Come si cerca. Beh, quindi. Sì, insomma, è molto, molto, cioè, no, nel senso è una cosa raccontare la naturalmente vita più, ecco, questo mi sono dimenticato. Anche se questo comunque racconto che ha letto è estremo, cioè lei uccide. Sì, non tanto quotidiano questo in particolare. Non è quotidiano, però io non so in quanti. Io già l'ho detto il mio. Forse, nel caso, cioè, esatto, sono cose che noi diciamo, magari che fanno parte di una nostra. Sì, che prima o poi comunque tu e quanti si domandano. Poi, no, cioè, si nel arriva caso al momento dell'essere criminale, è facile farlo, mettere in pratica quella cosa. Esatto, l'azione criminale. Oh, naturalmente aggiungo l'ultima postilla, che era una cosa che intendevo dire, che naturalmente più diciamo si è conflittuali con l'ordine costituito, maggiore la repressione. Questo però, insomma, non vuol dire che la responsabilità della repressione è di chi combatte per la libertà. La responsabilità della repressione è sempre di chi compie la repressione. Vabbè, l'ho detto. Da qualche tempo qui è in corso un ciclo di incontri su letteratura in movimento, scrittura in movimento e scrittura senza movimento, che fa perno sull'attività di Valerio Evangelisti. Si è partiti da lì e poi si sta sviluppando questa questione, quindi come scrivere, perché scrivere, in che rapporto si scrive con le lotte sociali, con le situazioni, eccetera. Ecco, vorrei chiederti che cosa pensi di non tanto di quest'autore, ma di questa questione. Risulta è da... molto, beh, direi che ha a che fare direttamente con quello che abbiamo provato a fare. Certo, cioè, come la vedi proprio? Allora, io penso questo. Qualche giorno fa leggevo proprio a scuola, insomma, io faccio l'insegnante di matematica, vabbè, qua mi conoscono tutti, però fa niente. Lo dico lo stesso, faccio l'insegnante di matematica, lavoro in una scuola superiore, e l'altro, qualche giorno fa, mi sono ritrovato per le mani un testo che io non la conoscevo neanche di nome, senso, con quei nomi che, insomma, senti. Insomma, mi trovo questo pezzo di Elsa Morante, che è un pezzo molto bello, di Elsa Morante, che io non conoscevo neanche l'autrice, insomma, come di nome. Ce l'avevo sentita, poi sono andato a indagare, insomma, è stata la compagna di aiutatemi. Moravia. Insomma, gente grande, gigante, insomma. E c'era questo pezzo che era praticamente la traccia di un compito di quinta superiore, ok? Della maturità. E io, insomma, ho preso questo pezzo, ho cominciato a leggere, cioè, siccome, diciamo, sono curioso, i compiti della maturità mi interessano moltissimo per tutta una serie di ragioni che tutti quanti noi possiamo immaginare. Quindi prendo questo testo in mano e lo leggo fino alla fine. Era una cartellata scritta abbastanza fitta, insomma, così. E quindi chiedo, quando lo leggevo, cioè, dovevo, insomma, dovevo stare particolarmente concentrato, non era un pezzo che leggevi tipo come sta roba che abbiamo letto noi, cioè, era una cosa un po' più intensa come scrittura. Il messaggio qual era, insomma, che Elsa Morante, in sostanza, e prima di dirvi qual era il messaggio, chiedo alla mia allieva, dico, senti, ma l'hai letta questa cosa? Allieva che fa la quinta, Ibra è mio allievo, è grande Ibra, e che sta in classe con... E ho chiesto a Ifra, gli ho detto, senti, ma tu l'hai capita questa cosa? Ho detto, no, no, era abbastanza complesso. Insomma, è Samorante che diceva che... Ora, io non so se questo debba essere il compito della scrittura, perché secondo me uno deve poter scrivere e leggere. Quel cazzo di pane, insomma, non ci devono essere, cioè, non ci devono essere dei limiti a quello che uno può voler leggere o voler scrivere. Poi ti piace Moravia, ti leggi Moravia, ti piace Céline, ti leggi Céline, o quel che vuoi. E lei invece, diciamo, poneva l'accento sulla questione che la scrittura, cioè, insomma, lei conferiva alla scrittura una sorta di imperativo morale, cioè chi scrive deve opporsi al dominio, al potere, all'oppressione, cioè lei sosteneva che, io penso, allora, quello che penso io però è una cosa molto soggettiva, mai avrei velleità di universalità, insomma, però quello che penso io è che, almeno che sono tutte le cose che ho letto in vita mia, insomma, quelle che mi hanno attizzato di più, è stato sempre la critica del potere e del dominio, cioè queste sono le cose che mi hanno davvero sedotto in maniera viscerale. E però, Roberto, cioè, questo è quello che sento io, quello che provo io, perché penso che ognuno di noi abbia delle sensibilità ed è giusto che ognuno, diciamo, insomma, persegua la sua linea di fuga, che insomma, segua la sua indole, se vogliamo metterla così. Insomma, posso domandare se un libro può essere non di denuncia? Cioè, anche un libro di favole? Allora posso rispondere, mondo, Roberto? Cioè, puoi scrivere quello che ti pare. Allora, la questione è questa. La questione è che, in mezzo a tutta questa scrittura che viene propinata sui media, sulla carta stampata, che fanno a gara per avere la cintura di nera di leccaculismo e di conformismo, naturalmente, allora, cioè, lì diventa ancora più, secondo me, più importante scrivere per dire, diciamo, per sì, opporsi, sì, sì, a questo. Non è metaforico, per dire, eh? Poi, diciamo, ripeto, poi ognuno possiede la propria sensibilità. Io, per esempio, io, nonostante mi abbiano... Vabbè, tanto siamo fra di noi. Cioè, io Calvino, tre pagine, boom, cioè, mi spaccio. Cioè, tu dici, vabbè, ma Calvino, cazzo, non c'è... Sì! È un genio, però a me non mi cattura, non mi prende, cioè io ho bisogno di leggere cose cruente. Sei fuori dalla norma. Tra l'altro non la conosco neanche la norma, per mia fortuna. Poi la vita è troppo breve per leggere cose nella, diciamo, norma. Nella norma, cioè, cazzo, siamo... quasi. E quindi, per rispondere a Roberto, io penso che la scrittura debba avere, io personalmente penso che la scrittura deve avere questo compito, il compito della scrittura deve essere quello di prendere coscienza delle ingiustizie che ci sono nel mondo e sviluppare una critica la più potente possibile. E lasciare questo segno, poi, in fondo, e dare questo tipo di messaggio a chi legge, cioè a dire, oh, guarda che... Poi, diciamo, qual è l'altra questione? La questione è che le ribellioni, le rivoluzioni, le rivolte hanno inserito dentro nella storia questa sorta di virtualità permanente. Non mi ricordo se... e Foucault e Deleuze che dice questa cosa. Però questa sorta di virtualità permanente, cioè questa cosa non è più una cosa impossibile o solo pensata, è una cosa che è stata realizzata, e quindi se è stato fatto questo vuol dire che si può fare ancora meglio magari di come hanno provato a farlo gli altri, diciamo, alla luce di quello che riusciamo a concepire con il nostro intelletto limitato, limitatissimo, quel che è. Quindi penso che la scrittura abbia soprattutto, secondo me, questa funzione. Tant'è che poi c'è, cioè, financo, come si chiama, Ossi di Seppia e di Montale, grazie. C'è questa quartina finale che è straordinaria, cioè noi non sappiamo ciò che vogliamo, ma sappiamo ciò che non vogliamo, che è la stessa idea che dice Nietzsche, sicuramente prima di Moravia, che dice: noi siamo quelli che abbiamo distrutto le vecchie tavole della legge quando le nuove non sono scritte che a metà. Ecco, c'è questo potere, questa potenza della negazione, di questa negazione affermatrice. Io penso che la scrittura debba avere questo compito, almeno quella è la scrittura che piace a me, che io vado a leggere, con cui io mi trovo, che mi alimenta, insomma, mi ha portato a essere la disgrazia che sono in questo momento della mia vita, il guaio che sono. Tra l'altro, da docente di matematica non ti sei chiuso dentro un quadrato, ma hai preso in pieno le leggi della matematica. No, ho preso in pieno il muro dell'esistenza, ci sono andato a sbattere contro, esatto, della serie, che cazzo hai studiato queste cose. Naturalmente questo mi fa, questo no, nel senso che cambiare, quindi tutto, vabbè, adesso dovrei raccontare, però poi ve la scrivo in un altro pezzo, perché mi sono messo a studiare statistica anziché studiare, ma questa è un'altra storia, diciamo, a parte della mia esistenza. Sì, insomma, questo mi, cioè, dico, pur pensando certe cose da piccolo, diciamo, ho commesso un errore così grave, e quindi, diciamo, questo mi consola, nel senso che sono proprio nato sbagliato, per cui non posso pretendere chissà che, diciamo, sono, quando uno nasce sbagliato è già giustificato di per sé, non deve cercare attenuanti, scusanti. Sì, certo. All'inizio tu hai posto una distinzione abbastanza secca tra musica e scrittura. Sì, anche a me era puoi chiarire? Allora, dunque, cos'è? Perché lui è attento e tu invece di distinzione. Posso provare a rispondere cosa ho interpretato io? Sì, mi piacerebbe. Sì. Allora, io l'ho interpretato, a me è piaciuta molto questa distinzione tra la scrittura e la musica. Sì. E sono d'accordo, nel senso che la musica, anche se è una musica che può avere dei messaggi comunque seri, profondi, di lotta, o truci di dolore, comunque rimane una parte di panacea per l'anima, per le emozioni, mentre nella scrittura la verità, secondo me, che, cioè, la scrittura in sé, non essendoci l'armonia, si tocca le corde emotive, ma che secondo me si avvicinano di più al dolore reale, quindi nella scrittura si soffre di più, quindi una verità cruda la soffri, cioè questa cosa dell'uccisione la soffri. Nella musica, io non so come dire, il cantautorato triste ne abbiamo, De André tocca, però ascoltare De André è sempre comunque un momento di gioia piacevole. Questa è la cosa che ho capito, che hai detto tu. Io sì, insomma, l'idea è questa, cioè allora, intanto, per esempio, prendiamo la musica sinfonica, ok? La musica sinfonica leva, insomma, l'opera nel cui c'è comunque la voce che canta, diciamo, musica, tu senti, che ne so, Beethoven, Rachmaninoff, che ne so, lì parole non c'è stato. vabbè, poi ti senti il requiem di Mozart, ok, è un requiem, deve dire Dio qua, Dio là, salvami, eccetera, insomma, eccetera. Però diciamo, intanto la musica non è riducibile al linguaggio, non, cioè, tu puoi descrivere a Beethoven a una persona, ma ascoltare questo, dice, senti, fammi una cortesia, fammelo ascoltare, così. E quindi diciamo, anch'essa passa per un approccio di tipo esperienziale, come, cioè, noi non possiamo fare, per esempio, fare esperienza della civiltà romana, un'esperienza dobbiamo fare, non si può fare questa cosa, quindi che facciamo? Prendiamo i libri, studiamo se ci interessa, siamo curiosi, eccetera. Quindi è un'esperienza di tipo indiretto, invece la musica è un'esperienza proprio di tipo diretto. Ora, questa cosa della musica, penso di aver detto quasi esattamente quello che ha detto lei, cioè, io sono uno che ascolta la musica 24 ore al giorno, cioè, quando sono sveglio, non lavoro, non faccio altro, diciamo, ascolto moltissimo la musica, perché insomma mi calma, mi e quindi ha questa funzione, appunto, curativa, ecco. E la scrittura invece implica una presa di consapevolezza, almeno se la scrittura è fatta come si deve, oppure se piace, eccetera. E maggiore è la consapevolezza del mondo, maggiore è l'orrore che si percepisce del mondo stesso. E questo orrore, diciamo, è pericoloso, perché ti può indebolire, ecco, diciamo. Questa cosa la musica non ti indebolisce mai, semmai ti carica, insomma, se naturalmente occorrono, come dice il maestro, tante cose, cioè sono sempre dei concatenamenti, la musica con il cannone, bevute, il ballo, e insomma tutta una serie di cose. Però appunto, cioè, l'orrore non fa parte della musica. Parlo dell'orrore vero, parlo di quell'orrore che descrive magistralmente in Apocalypse Now, giusto, come si chiama, Marlon Brando, sì, quando in quel monologo straordinario, sì, davvero potentissimo, ecco, quel fatto di essere amici dell'orrore, perché se non sei amici dell'orrore, l'orrore è tuo nemico, allora tu diventi vittima dell'orrore, insomma, questa cosa qua. Quindi questa cosa qua, questa forma di consapevolezza, di coscienza, non fa parte della musica, e direi meno male, almeno, diciamo, che ci sia una, o come anche di altre forme di arte, di espressione artistica, ma la musica in particolare, perché è qualcosa di davvero di singolare, insomma, essendo avulsa dal linguaggio. Non so se ho risposto. Sì, hai risposto. Non so se sono d'accordo, nel senso che parliamone, mi interessa. Anch'io non sono tanto d'accordo, forse. Da una parte l'elemento del godimento estetico è centrale per ogni forma di espressione, certo, artistica. E la ricerca della forma ha una pregnanza particolare proprio nel caso della scrittura. E in quanto tale, qualsiasi opera del genio creativo, qualsiasi opera d'arte, anche la più intenzionata a incidere sul reale, è comunque un atto di distanziamento dalla realtà, perché se tu vivi una situazione estrema di orrore estremo, di sofferenza estrema, di fame da non vederci, a meno che esista un movimento che riesce a tirarti fuori da quella condizione di afflizione in cui tu stai perdendo la tua vita, tu lì non riesci a vedere nient'altro che il fatto che soffri come una bestia, e da questa esperienza tu non ricavi un bel cazzo di niente se non desiderare che finisca, no? E anche la descrizione la più sincera, intenzionata alla trasformazione, che passa attraverso un atto creativo, insomma, se proprio vai lì, certo, e spari, no? A quello che è il responsabile di quella sofferenza. Gian Dante X, artista grafico, antifascista, cioè i fascisti tutte le volte che lo vedevano lo riempivano di botte e lo verniciavano di rosso, no? Poi lui riesce, va in Francia, quando sa dello scoppio della rivoluzione spagnola prende tutti i suoi quadri, li getta nella Senna e va in Spagna, no? Ora, questo non significa che quello che faceva come artista non avesse la stessa intenzione dell'andare a combattere i fascisti in Spagna, ma non sono la stessa cosa. E la problematicità, la bellezza da una parte, la problematicità del fare artistico sta anche in questo, in quindi tutte le generazioni di artisti più sensibili hanno cercato di elaborare questo scatto, che però in qualche modo è costitutivo, secondo me. Quindi quelle considerazioni che tu fai valgono sia per la musica, per la pittura, e infatti l'idea era quella di cercare di unificare il più possibile l'espressione con la vita, la forma col combattimento, no? Però questo non ha, secondo me, solo una valenza negativa, non è solo un limite, perché poi da certi prodotti culturali tu puoi effettivamente trarre un alimento, un'idea, un'immagine per combattere meglio, per posizionarti, sì, e quindi sì, insomma sì. Nell'ambivalenza dei linguaggi. Sì, è vero che la musica non è propriamente un linguaggio, quindi anche il suo contenuto è l'ineffabile, no? Però comunque sia, anche essa, se vai a vedere, è un linguaggio. Certo, no? Un linguaggio che poi si dà in tante forme, diverse, in cui c'è sia l'elemento sonoro, ma c'è anche l'elemento della lingua, perché comunque dentro la musica, certo, la parte della parola ha avuto un grosso peso. Ecco, insomma, è interessante quello che dici. Non so se sia perlomeno io non mi ritrovo pienamente in quello che volevo dire. Allora, io quando leggo, personalmente, quando leggo perché quello che trovo scritto sulle pagine che leggo non è che mi fa bene, mi fa benissimo, cioè io mi rende, non lo so, per esempio mi rende maggiormente consapevole di una certa serie di cose che magari avevo solo intuito vagamente, quindi mi fa crescere, mi fa diventare molto più capace di organizzare un discorso su quella questione. Quindi aumenta la mia potenza sicuramente, quella esplicativa, quella dialogica, eccetera. Questo, diciamo, questa cosa, e quindi diciamo è una sensazione davvero straordinaria, insomma, almeno io la considero come tale, è un'esperienza davvero straordinaria. Insieme a questo, diciamo, mi conferisce consapevolezza. La musica, diciamo, intendo per musica, cioè io sento una canzone cantata in tedesco, non so, io il tedesco non lo conosco, però mi piace, cioè mi piace moltissimo. Beh, diciamo, mi vado a leggere il testo se la canzone mi piace, cioè se la canzone mi fa cagare io il testo non lo vado a leggere. Cioè, quindi diciamo, la musica diciamo, ha una precedenza emozionale fortissima rispetto al testo. E magari quel testo parla di orrore, Donau Kinder dei Rammstein, parla di bambini che vengono uccisi durante la guerra, che, cioè, è un testo tristissimo, di una... però diciamo quella musica che l'accompagna lo rende più digeribile. No, diciamo, a volte la musica ha questa funzione quasi, secondo me, magica, insomma, di far calare questa patina, non lo so, di empatia, che è un'empatia che sì, può derivare dal linguaggio, ma è un'empatia di un altro tipo, è quasi un sentire irrazionale, difficilmente riducibile alle parole, oppure come solo i grandi poeti sanno fare. Ma insomma, infatti, secondo me. E quindi, diciamo, la scrittura ha molte funzioni. A differenza della musica, che ne ha un po' di. Cioè, colpisce più. Cioè, la musica colpisce più al cuore che al cervello. Insomma, infatti, la scrittura. Diciamo, certo, se io voglio colpire. Ultimamente stavo. Secondo me perché finisco. Finisco questo. Secondo me, finisco. Sono curioso di sentire. Finisco per dire questo. Secondo me, se si vuole colpire la mente di qualcuno, bisogna passare dal cuore di quella persona. Perché è una bella scorciatoia. Però, ti faccio un esempio: la Bugayev tortura la gente con la musica e non con leggendo i libri dell'orrore o comunque per spiegare dell'orrore. Sì, anche secondo me la musica può trasmettere. La musica, ma la musica è un linguaggio al 100%. Oh, la notazione, c'è una serie di robe, qualsiasi musica sia. Molto carino. La musica pure no. E poi secondo me. La musica, soprattutto se parliamo di canzoni, ok, ma le canzoni sono canzoni. Se parliamo di musica è un altro discorso, cioè esatto. La musica in teoria deve aspirare al divino, al cosmico, quindi di conseguenza più coinvolta la mente e il cuore di quello non c'è niente, secondo me. Sì, secondo me il fatto è che comunque noi evitiamo di ascoltare musica estremamente struggente, ma questo non vuol dire che non sia stata fatta, che non esista e che non sia veramente un'esperienza di quelle che non si augurano, perché ascoltare dall'inizio alla fine delle melodie, delle armonie scritte apposta per inglobarti in questo orrore di cui tu parlavi, cioè è una cosa che come essere umano tendenzialmente si evita di fare se non in certe occasioni, mentre secondo me attraverso il linguaggio e la verbalizzazione riusciamo a digerire certi sentimenti che con la musica ti arrivano e non riesci a tradurre, quindi ti rimangono lì, ne fai esperienza, però poi magari non riesci a farli evolvere, quindi stai male e basta. Invece con la razionalità del linguaggio riesci a dargli una forma e a trovare anche delle possibili evoluzioni logiche, che però sono tutte collegate al nostro sistema di classificazione logico-razionale, che ci dice, ah, tu provi questo, c'è questa cosa nel mondo, c'è questa situazione, può evolvere in questo modo, mentre la musica è lì, tu la vivi in quel momento e basta. Quindi poi è la musica che ti dice se può andare meglio o no. In testa anche, cioè comunque ti cambia. Poi tu dici, uno non vuole esporsi. Io mi espongo spesso e volentieri, la musica mi espongo, ormai c'è tutto quello. Tu parli di Rammstein, ad esempio, no? Che sono un tipo un po' industrial metal. Però sappiamo benissimo che soprattutto nel genere industriale c'è una pletora di robe che servono a farti stare male, a farti avere gli incubi di notte, a fare quella roba. Io faccio musica per dormire, ad esempio, quando faccio musica ambita, cioè la studio apposta per farsi le robe. Ovvio che non è funzionale, cioè, non funziona, però spesso e volentieri quando fai i drone, soprattutto, piuttosto che musica d'avanguardia, musica di rumore, robe così, cioè la prima cosa che vuoi fare non è tanto fare musica quanto scatenare reazioni e fare in modo che la gente abbia un certo tipo di emozione con quella musica là, in primis che sia dallo shock alla presa male, cioè tutto quello che vuoi. Sta, certo, è vero che la verbalizzazione in questo caso aiuta a viversela meglio. Cioè, piuttosto che leggermi un brano, la poesia forse è l'unica cosa che può avvicinarsi alla musica e alla scrittura, forse. Ma la narrativa secondo me no. Voglio cioè fare... tu dici praticamente che è fallace proprio il paragone. Sì, secondo me sì. Scusate, faccio un paio di considerazioni di flash. Ma si può fumare? Robby, si può fumare? Si può fumare? Volevo dire una cosa sui movimenti. considerazione estremamente generale, cioè l'azione sta nella storia e anche l'arte sta nella storia, sì, però l'arte a un certo punto preleva un pezzettino e cristallizza, se non altro perché l'arte in quanto arte è vincolata a una propria immanenza, cioè un'opera d'arte a un certo punto deve finire. Un romanzo inizia e poi finisce, un quadro è lì dentro, un brano finisce, eccetera. E quindi a un certo punto cosa fa? Astrae un pezzo di storia dalla storia e lo tiene lì. Io non credo nell'universalità delle cose, però credo in un prolungamento, no? E quindi noi, a distanza di una valanga di tempo, ancora siamo lì che leggiamo l'Odissea o la Divina Commedia o insomma tanti libri, tanti dipinti, cioè fruiamo di cose che sono esistite. E in questo senso è bello perché da una parte c'è l'azione trasformativa dell'arte, no? Il mio riferimento qui è banalmente Sartre della Critica della ragione dialettica, cioè noi siamo nella storia, portiamo dentro la storia e poi la estroflettiamo agendo sulla storia, quindi l'arte è sicuramente trasformativa. Però è bello, cioè è anche testimonianza, no? Io ti racconto anche com'erano le cose o come sono le cose, cioè l'arte si proietta sempre nel futuro, ecco. E sulla musica, ultimamente io pure faccio l'insegnante e quindi recentemente ho avuto un sacco di tempo libero perché erano le vacanze di Natale e mi sono rimesso un po' a leggere Derrida. E mi è venuta in mente una battuta che me la gioco qui, vedere con le orecchie, ecco, e noi siamo una civiltà costruita sulla parola, no? Dalla Bibbia che era il verbo all'inizio di tutto a noi siamo abituati a domandarci che cos'è da Socrate in poi e ogni volta che ci domandiamo che cos'è diamo una risposta linguistica e ogni cosa diventa un discorso su e tanti significati, tanti concetti li possiamo esprimere solo attraverso dei discorsi perché li comprendiamo così, ma questo siamo noi. E se fossimo una società, una civiltà non costruita sul discorso, ma sul suono, ok? Cioè, è una casualità storica il fatto che siamo così. Allora, sì. E questo chiaramente non dà, e concludo, cioè, insomma, io non vedo le arti in rapporto gerarchico, no? O in... quella esprime di più, quella esprime di meno. No, ma secondo me non si tratta di un rapporto gerarchico. Secondo me, ritornando a quello che tu dicevi riguardo al linguaggio, alla parola, io personalmente, per mia esperienza, non ho trovato mai nessun altro tipo di espressione artistica che possa esprimere, scusate la ripetizione, la complessità, un certo tipo di complessità, se non all'interno del linguaggio, cioè, e anche il linguaggio stesso poi non riesce a coglierla neanche tutta e sempre, infatti stiamo sempre a discutere, a parlare di che cos'è, che cosa non è, cosa è giusto, cosa è sbagliato, eccetera. Quindi nonostante diciamo poi affermiamo, facciamo delle affermazioni di carattere universale, anche quando lo facciamo, insomma, almeno i più onesti di noi sanno che gli universali esistono e non, possono anche non esistere, insomma, quando vogliamo affrontare la descrizione di un certo tipo di complessità, la formalizzazione è indispensabile, cioè hai voglia tu a esprimerlo con il re minore, cioè non si può esprimere con il re minore o la scala pentatonica o dorica, cioè devi esprimerlo con il linguaggio, a seconda della disciplina nella quale ti trovi, cioè non lo so, se Io non ho mai avuto questa occasione, però se tu prendi un libro di fisica di oggi, un testo di fisica, lì il linguaggio naturale non lo trovi, sono solo simboli e simbologia formale. E quindi è il linguaggio anch'esso, per me è cinese mandarino, diciamo, però... Quindi diciamo la scrittura ha questa funzione di esprimere la complessità, questa cosa non le si può togliere. E non è per fare la gerarchia, cioè la gerarchia è un cazzo. Cioè, allora, quando è stato stamattina mi sa che, insomma, vado, entro in classe, leggo Kant in terza, cioè, in quarta. Leggo Kant, Kant l'aveva scritto lei, allora dice, cazzo, l'illuminismo, ho detto, raga, guardate che quando Kant scriveva, cioè, questi ancora picciavano le donne per strada come streghe, cioè, gli esseri umani compravano e vendevano altri esseri umani, cioè, c'erano schiavi, cioè, cose che voi neanche vi immaginate lontano da me, se non insomma come atto di fantasia, per fortunatamente, per certi aspetti sicuramente. E quindi insomma, che cazzo c'entra? L'illuminismo, cioè, quindi la ragione, la razionalità, eccetera. E poi mi è venuto in mente di dire questa cosa che Liz mi ha detto, ah, ci sta. Cioè, che poi il limite dell'illuminismo è il romanticismo, cioè il fatto che noi siamo razionalità, ma siamo anche irrazionalità, e naturalmente riconoscendo l'esistenza di queste due componenti fondamentali, così come possono essere Apollino e il Dionisiaco, cioè bisogna riconoscere l'esistenza dell'irrazionale come parte costitutiva di quello che noi siamo, e senza fare gerarchie, cioè se io devo calcolare l'area di questo cazzo di tavolo non mi metto a fare l'irrazionale, capito? Prendo il metro, lo misuro, base per altezza e lo faccio. Ma se io devo fare, devo esprimere un sentimento d'amore, di odio, di quel cazzo che è, non prendo il metro, uso un altro sistema, cioè insomma... Riconoscere che la nostra natura è molteplice, insomma, ritorniamo cioè, insomma, questa sorta di schizoanalisi, che siamo molteplici e senza necessariamente dover fare sempre la gerarchia di chi comanda, se la razionalità o l'irrazionalità. Ci sono contesti, ambiti in cui è necessario pensare razionalmente, i contesti in cui sappiamo benissimo che la razione, perché ti innamori della donna, dell'uomo di cui ti innamori, cioè abbiamo una risposta razionale a questo, ma ci mancherebbe altro, cioè ci può essere ma anche no, e poi non è un universale, capisci? Per cui il molteplice che genera altro molteplice, quindi una complessità che è difficile da ridurre e anche da, come dire, anche da indagare, e per questo poi ci sta il poeta sensibile in maniera fortissima a quella questione, che riesce a scegliere quelle 4, 5, 6 parole, 20, 1000 parole che ti colpiscono te, poi non è che colpiscono tutti quanti, mo' insomma. Senti Raffa, ma a proposito, che mi è venuto assai curiosità, che magari è una domanda del cazzo, però c'è libertà di espressione. Però da ciò che voi avete voluto comunicare, sì, col romanzo, sì, ci sono delle aspettative, cioè già che il libro ha un compito, e allora, dunque tu comunichi e deve raggiungere qualcuno, ci sarebbero delle aspettative? Tipo se lo leggo poi? Allora, dunque, allora. Vivere senza dover scobare. Durante scopo di ogni espressione artistica. Durante l'immaginazione, diciamo, poi insomma appunto lo puoi far finire come ti pare, eccetera. quindi avevamo due strade, ecco, a proposito di quali aspettative. Avevamo due strade. Quella, diciamo, accusata palesemente di millenarismo, che ha detto, vabbè, allora quindi c'è la soluzione di tutti i problemi dell'umanità. Ecco, naturalmente noi abbiamo scelto quella distopica, ovviamente, perché è più facile, è più semplice, anche meno impegnativa. Per rimanere all'interno del distopico, appunto, richiamo l'idea di cui ho parlato prima, cioè maggiore è la conflittualità, maggiore è il livello di repressione che c'è, e questo naturalmente non darebbe aspettative, ma siccome, ripeto, diciamo, nella storia ci sono state, diciamo, mi costringe a ripetere un'idea che ho già detto, cioè quello che noi chiamiamo civiltà oggi sono i successi che hanno avuto i movimenti e le lotte di liberazione una volta che sono diventati istituzionalizzati e sono stati celebrati solo nella loro forma. Dimenticando, diciamo, la storia, la loro storia, cioè la conflittualità che hanno espresso, che hanno e che ha grondato sangue, galera, manganellate, pistolettate, eccetera, morte, eccetera. Cioè questa fase, diciamo, non viene perché è una fase cruenta e diciamo il compito delle istituzioni è quello di tenere tutto assieme senza conflitti, no, anche perché darebbe, sì, darebbe forza a quello che è stato e quindi darebbe forza a quello, naturalmente, che essere. Questo perché naturalmente, giustamente, lì si dice questo mette in discussione tutto l'assetto del potere costituito che allegramente perpetua logiche di ingiustizia, di oppressione feroce, violenta, di esproprio massiccio nei confronti delle classi lavoratrici o delle classi del proletariato, insomma, senza girarci, cioè, del sottoproletariato sicuramente, questo. E quindi mi sono dimenticato che cazzo la mia vita stava un po' impresso. Delle aspettative. No, quali? Quando leggerò il libro mi dovrò aspettare qualcosa, nel senso. O tu ti aspetterai qualcosa da lui, sì, soprattutto. Sì, ci dobbiamo guardare con occhi diversi. Tu mi puoi guardare come ti pare, anche come mi guardavi ieri e l'altro ieri. L'obiettivo è di un'opera d'arte è colpire qualcuno, diciamo, senza fargli male, come diceva Bob Marley, diceva, la musica colpisce senza fargli male. Diciamo, magari facendoti preoccupare e sicuramente, diciamo, chiedendoti cos'è che tu puoi essere, così, cos'è che tu puoi fare per contrastare l'ingiustizia diffusa, insomma, cos'è che nel tuo piccolo tu puoi fare. E naturalmente, diciamo, le cose nel piccolo rimangono nel piccolo fino a quando non c'è un'organizzazione. L'organizzazione implica tutta una serie di procedure che possono essere inclusive quanto esclusive, quanto di rimessa in discussione, ma già che si inneschi il confronto. Cioè, secondo me quello che manca oggi è che noi non parliamo manco più. Quello è vero. Noi non parliamo manco più di quello che ci riguarda, di quello che ci circonda. siamo sempre, cioè almeno quello, questa è quella sensazione che io, che ci mancherebbe altro, sì, sì, sono nato sbagliato, figuriamoci quanto mi posso sbagliare in queste considerazioni di così grande portata, però non c'è il confronto, le ragioni diciamo esistono, sono davanti a tutti, insomma qualcuna mi sono anche permesso di leggerla in quello che ho scritto, però diciamo il nostro compito è opporci a tutto questo e se riusciamo a organizzarci è pure molto meglio, anche se è estremamente complicato e sempre più complicato perché diciamo da quando mo chi la coglie, chi non la coglie, da quando diciamo e questo ha decretato il suo declino definitivo, da quando diciamo nel Partito Comunista Italiano da quando il Partito Comunista Italiano anziché essere partito nello Stato è diventato Stato dentro al partito, e questo è Berlinguer, qua si parla di 50 anni fa, questo declino era inevitabile, lo scrissero quasi 50 anni fa e poi insomma la parabola la conosciamo, non siamo proprio giovanissimi, insomma questa cosa la sappiamo. Ma freddo, no, non ho capito. Esatto, solo 50. La vita inizia ai 50, Sì, no, vale pure per quelli, non solo per i vecchietti come me, vale pure per gli altri. E quindi diciamo l'organizzazione del proletariato, delle masse proletarie, che sia soprattutto quello urbano, quello metropolitano, dove insomma si vivono contraddizioni e momenti, insomma, comunque in passato si sono vissuti epocali e apicali nella storia della ribellione, insomma noi ci troviamo adesso con questi cocci oggi che è difficile anche insomma riuscire a comprendere, a organizzare, insomma siamo in un mare di merda. Iraf, un po' raccogliendo un po' di cose che sono state dette, vorrei chiederti anche quest'ultima: che ruolo ha per te il rischio? E in particolare il ne vale la pena o il non ce la faccio più, quindi che ruolo ha per te il rischio? Dunque, che ruolo ha il rischio? Io penso che nella rivoluzione, nella ribellione, nelle sommosse ci sia sia la razionalità che l'irrazionalità. Diciamo queste è uno dei pochi momenti dell'esistenza del genere umano in cui queste due forze concorrono responsabilmente diciamo che si penetrano talmente le une con le altre che è difficile scinderle, quindi l'eros e il logos insomma diventano tutt'uno, come scriveva Simone Weil. E quindi il rischio qual è? Beh, certo, non è che ci vediamo oggi noi 7-8 e pianifichiamo qualcosa di importante, cioè è necessario che ci siano delle condizioni, queste condizioni di consapevolezza hanno bisogno di di eventi, di fenomeni che siano collettivi. Quando parlo di collettivi intendo fatti da un sacco di persone, insomma negli anni 60 e 70 questi discorsi investivano molte persone dentro le fabbriche, le università. Perché attualmente è come se fossimo singoli attivisti, ma e quindi queste, diciamo, questi temi che erano talmente forti, che erano talmente come si dice, talmente irrinunciabili, direi, erano molto sentiti e, diciamo, hanno generato questa forza d'urto che ha prodotto lotte, conquiste. Per cui qual è il rischio? Beh, certo, il rischio deve essere, diciamo, è un fatto. Io non sono un profondo conoscitore di, però insomma, su queste cose, insomma, su queste cose Lenin ha scritto parecchio, diciamo. Pur essendo anarchico, gli riconosco che si è molto, ha fatto una grande ricerca in questo senso, e quindi organizzarsi è fondamentale. Cioè i lupi solitari non vanno da nessuna parte, ragazzi, lo dico da anarchico. Beh, un racconto lei è che ammazza il suo uomo e commette il crimine, un crimine di grande libertà, è solitaria queste cose. Ma io non ho attenzione, io non sto dando un giudizio di valore, cioè io non sto dicendo che è sbagliato. Il ragazzino che prova a uccidere Mussolini e che poi lo fanno a pezzi, che mi vengono i brividi solo a pensare. Io non dico che è sbagliato. Lui mi ha chiesto quanto bisogna rischiare. Quindi tu dici che vale di più la pena rischiare nel momento in cui si è in gruppo e quindi io dico che la possibilità di manovra. Io dico che quando si combatte per vincere, non per combattere. Combatte quando uno non ne può più, non è che combatti con l'idea, cioè combatti magari pure per vincere. Allora, non hai detto che vinci, dunque, bene, massimo dal cambio, più. Ma bene, allora, e quello va via. Diciamo che una persona, diciamo anche che chi combatte non perde mai. Adesso ci voleva l'applauso. Sbagliato. Questa vi è piaciuto, lo so. E però, diciamo, mi viene da aggiungere anche qualcos'altro, cioè che quando è che uno comincia a combattere, insomma, quando pensa che quel limite che lui tollera sia superato, insomma, di gran lunga. Ora, questo senso del limite, diciamo, questo senso del limite, nella storia ci sono stati dei momenti in cui questo senso che questo limite si era superato era una sensazione che apparteneva a molte persone. Oggi le persone pensano che il limite lo supera l'immigrato che arriva illegalmente in Italia e non questi bastardi nazisti che ci governano. Cioè, ma non parlo di questi, parlo che dopo la seconda guerra mondiale per 40-50 anni ha governato la Democrazia Cristiana, dove erano confluiti tutti i fascisti di merda lì, nei liberali, i repubblicani, che si erano riciclati là dentro. Poi una parte della già DC, insomma. Cioè, io vorrei ricordare, mo si fa tutto sto gran parlare, Moro va bene, insomma, le stesse BR, alcuni delle BR hanno sostenuto che diciamo i loro compagni abbiano sbagliato a uccidere Moro perché non si uccidono i prigionieri. Parole della BR. Alcuni altri, tanto per dire, per fare nomi e parlare di cose concrete invece di stare per aria. E mi ricordo che stavo dicendo, mi sono perdonatemi. No, prima di dire questa cosa stavo dicendo una cosa importante, scusa. Il limite, ecco, sì, diciamo, quando è che uno comincia a combattere? Quando uno pensa che il limite è stato superato, cioè che è intollerabile. E invece, diciamo, nella società con la... ah, ecco, sto dicendo, Democrazia Cristiana, poi una parte della maschera è caduta ed è arrivata, è arrivato adesso il re è nudo, cioè adesso, diciamo, questi sono quelli che l'altro ieri facevano a cacca Laurenzia, facevano il saluto romano, e adesso ce li abbiamo al governo, una massa di mentecatti, accattoni, goffi, stupidi, poi in fondo, insomma, cioè, come fai a parlare con una persona del genere? Non ci devi parlare, non ci puoi parlare. Ora, diciamo, questa sequenza di eventi e la conseguente gestione, poi naturalmente non dobbiamo dimenticare che noi in tutto questo mare di guai in cui ci troviamo, una funzione fondamentale è stata svolta dal Partito Comunista Italiano, con Berlinguer che aprì gli archivi a dalla Chiesa, insomma, schifezze. E naturalmente ha 30 anni di televisione, cioè le persone, diciamo, non so quanto leggessero i giornali 50 anni fa, però adesso, cioè, le persone, i giornali non li leggono più, la carta stampata non ha più neanche, non ha, cioè, fa fatica, insomma, infatti, come vedete, ci sono tutte queste offertone, il Corriere un euro tre anni, di questi roba qua, cioè, ma mi sembra, io quando ho avuto, insomma, ho fatto la scelta, quella è stata sì una scelta coraggiosa, quella di leggere l'Ulisse di Joyce, e praticamente ci sono decinaia e decinaia di pagine dell'Ulisse di Joyce che non dice un cazzo di niente, e lo leggi lo stesso, mi dice, si fermerà, insomma, quello che a un certo punto cambia discorso, eccetera. Ecco, diciamo, la carta stampata o comunque la maggior parte della disinformazione circolante è, sembrano quelle pagine di Joyce che non dicono un cazzo, insomma. E quindi l'abilità di chi scrive, a proposito di quello che dicevamo prima, di chi scrive, è più sei conformista, più ti pagano, più sei bravo, più dici che Hamas sono terroristi, Israele no, queste cose qua. E questo lo dicono tutti, e chi si permette di dire qualcos'altro non lo si fa dire semplicemente, oppure viene completamente escluso. Ora, ci sono altri canali di informazione, io li chiamo, che quelli sono di disinformazione, che però sono marginali e non esiste, cioè non c'è quello che manca, secondo me, insomma, io penso questo, è la collettivizzazione delle lotte, questa è una cosa che manca, delle lotte di liberazione, soprattutto in questo paese, qua vivo e qua vedo. E questa è una cosa che, diciamo, è stato talmente attaccato in continuazione tutto questo che ci ha portati al punto in cui siamo adesso, nel quale appunto cioè non se ne parla manco più. Cioè non si mette in discussione il sistema di produzione capitalistico, non esiste, questa cosa, diciamo, ci sono solo dei piccoli. D'altronde poi, vabbè, insomma, il sistema di produzione capitalistica è sancito nella Costituzione, la legge fondamentale dello Stato, è lì che, cioè, ci sono. Per cui, allora, tu ti attacchi la Costituzione, la Costituzione non ti dà, insomma. Una volta, insomma, tutte queste diciamo, queste timori non esistevano, di muro. Al di là della discussione su le arti possibili che abbiamo fatto prima, che è un avvicinamento a una serie di problematiche molto molto profonde, resta comunque, secondo me, che oggi la lettura e la scrittura rivestono ruolo fondamentale per qualsiasi posizione critica, perché oggi viviamo in quella che nel libro su Cospito che abbiamo pubblicato l'anno scorso abbiamo definito la gassificazione burocratica del pensiero e del linguaggio, cioè gassificazione burocratica del pensiero e del linguaggio. E quindi la parola e la scrittura, volenti o nolenti, tornano a essere un'esigenza prima ancora che un gusto, perché dall'altra parte si procede a una distruzione sistematica fino ai nessi logici elementari, così come si procede a una distruzione sistematica dell'immagine o del suono, che diventa un rumore indistinto. Ora, questo quindi è fondamentale, qualunque sia la forma espressiva scelta. Lo metti lì. Sì, sì. Poi, quando e come delle parole cariche di senso e uno stile che tende alla realtà potranno entrare nelle mani e nelle teste degli uomini e delle donne che ne hanno più bisogno, questo è un problema che ci grava addosso, ma che di fatto è fuori della nostra portata. Cioè, noi possiamo fare tutti gli sforzi, ma poi sono le cose che determinano. A me è sempre rimasta in mente una situazione topica al riguardo, cioè a Milano, nella mia esperienza, come nell'esperienza di tantissimi altri compagni, tu puoi scrivere centinaia di volantini, manifesti, puoi inventarti tutte le soluzioni, però non se li caga nessuno, no? C'è una situazione di lotta, come è stato qualche anno su in Val di Susa. Tu prendi in mano un pennarello e fai quello che una volta si chiamava un tazzebau su un foglio, attacchi un muro e sono gli inventi a volerlo leggere. Perché non si tratta solo di un movimento in una direzione. Il movimento è sempre duplice, triplice, quadruplice, cioè è l'incrocio delle vite che produce anche lo spazio dell'attenzione possibile, anche lo spazio della comunicazione, anche la possibilità che le tue idee dialoghino con un pezzo di vita altrui e diventino davvero un fatto espressivo di quella situazione in cui almeno temporaneamente la vita è uscita dai binari dell'ordinario, la gente non sta più in casa a guardare la televisione, esce e appunto senza nessuna premessa quello che dici può diventare un pezzo del discorso dell'altro, un po' questo. Però questo non dipende evidentemente solo né dalle capacità né dalle tecniche, anche se poi bisogna sempre trovare la forma più adeguata per quello che vuol dire, questo non toglie. Però se il tuo discorso troverà un qualche eco, è esso stesso un effetto di una situazione storica più generale, almeno io la vedo così. Però come ragionamento sul nostro presente, effettivamente la scrittura, la parola, una parola piena di senso, sono, ripeto, tornate a essere delle esigenze basilari, proprio perché certo. Mentre in altri momenti, so per dire, nel 77 la parola è stata forzata a favore di altre forme di espressione, però perché aveva in quella situazione mostrato i suoi limiti, che ci sono oggi. Si sta di fatto regredendo a una condizione pre-verbale. Posso fare una domanda? Certo. Ma è una curiosità più personale. Da ex insegnante di matematica ho capito che tu insegni matematica, sì. Non me lo ricordavo. Ma e la matematica come te la vivi? Tra letteratura, musica, cioè solo sgobbare? Perché vabbè, ho capito che non sei nella norma, uno che legge Kant nelle Io lezioni. Mai letto Kant in vita mia. No, ma hai detto ai ragazzi, hai parlato di Kant. Lei è colpa sua, Kant è colpa sua. Colpa mia. No, vabbè. No, no, no, allora. Dunque, no, vabbè, te lo dico così, insomma. A me piace molto la filosofia. Dica, perché a un certo punto non ce la facevo più, perché vabbè, io insegnavo a scuola media, però non alle superiori. No. E a un certo punto non riuscivo più, forse anche per alcune esigenze che vivo un po' mie, simili, parallele alle tue. Però anche perché, vabbè, dico delle banalità, i genitori erano troppo invadenti, la matematica a scuola media è considerata. La volevano imparare anche loro. La materia principale, eccetera, eccetera. Però a parte queste cose, volevo capire come è una curiosità mia. No, qual è la domanda? No, come ti vivi la matematica? Ad esempio, come mi vivo la matematica? O alla lettura? Come mi vivo la matematica all'interno del mio cervello malato? Dunque, per me la matematica è come andare in bicicletta. Una volta che hai imparato. No, cioè, non ho. Cioè. Per cui non dico, ma mi dico, ah prof, ma lei non c'ha mai il libro? Dico, guarda, io non so neanche che cosa è scritto sul tuo libro, io lo uso solo per gli esercizi, non so come sono fatti, ma a me frega un cazzo, cioè, la sai, basta, poi proponi tu gli esercizi, i discorsi, eccetera. Allora, noi siamo un flusso costante che ci dicevo, tu prendi un insegnante di storia, cazzo, cioè quello deve fare la lezione su, che ne so, sull'illuminismo, dai, no, proprio quel personaggio lì, Luigi XIV. Secondo te ricordarti Luigi XIV è la stessa cosa ricordarti le derivate? Ma non se ne parla proprio. Io vado da Luigi XIV. Tu le derivate le sai, sono quelle, le fai, sai quello che fa. Luigi XIV ha almeno due date, due, cioè, è una quantità di nozioni, proprio a livello di nozioni. E poi non c'è la logica formale che è serrata, capito? E mo che ti devo dire come funziona la matematica? No, volevo capire come te la vivevi tu. No, io me la vivo nel senso che, diciamo, ripeto, cioè, come la vedevi, ad esempio, rispetto a tutto il discorso come, un po' ampio sulle arti, la letteratura e come andare in bicicletta. Ma guarda, insomma, quella è la Gaia Scienza, cioè, i suoi limiti. Cioè, la matematica serve per misurare fenomeni, come dice il maestro, serve per analizzare i funtivi, che sono gli oggetti di cui si occupa la scienza, e che la scienza è, come dire, caratterizzata dal fatto che l'oggetto del suo studio è limitato, cioè è come il peso dell'essere umano, va da 50 kg a 200 kg, faccio per dire, il giro della vita di una stella, cioè, è tutta. Mi dissero, insomma, qualcuno mi disse che quando in fisica ti esce infinito non va bene, è un guaio, hai sbagliato, ok? Quindi la scienza è, e quindi, diciamo, se è utile per descrivere certi fenomeni, per parlare di certi fenomeni, e se tornassi a nascere non farei statistica all'università, farei filosofia molto probabilmente, ma appunto essendo nato sbagliato faccio statistica. Però insomma, poi vabbè, insomma, se in classe mi si presenta, poi da me sono già più grandi, per cui pongono questioni che hanno a che fare direttamente con l'etica, con la morale, e magari bambini di 12 anni, insomma, ancora, cioè, sono bambini pure i miei, sono bambini. Pensa se avessi insegnato filosofia, quanti più te ne avrebbero poste. Però, esatto, però insomma, non perdo mai l'occasione di... Non perdo mai l'occasione, diciamo, di parlare di questioni altre, se io lo ritengo necessario, lo ritengo quasi sempre necessario, e ne parlo, diciamo, in maniera brutale e sconsiderata. Ne parlo anch'io all'elementare. Sì, insomma, adesso hanno... tu mi sei pensato, hanno introdotto alla scuola l'educazione civica. Quando io andavo a scuola, l'educazione civica era l'insegnante di storia che ci faceva, insomma. Ecco, invece adesso sono inventati questa cosa, Io l'educazione civica la faccio, diciamo, come dico io che la devo fare, la faccio sempre, non ho mai smesso di farla in 32 anni di lavoro. Dicevi, dimmi, cara. Allora, io faccio a dire che è molto raro, nel senso, è molto raro aspettarsi un libro scritto da un professore di matematica, come lei diceva prima. Infatti. Però ci sono un sacco, cioè, è molto raro che mi rimangano delle frasi impresse in mente, però mi sono piaciute in particolare due. Quando dice vincere la morte come se non moriamo mille volte in tutta la nostra esistenza, poi la parte del criminale, quando dice che un crimine alla fine cos'è? È un qualcosa abolito dalla legge. È solo ciò che è proibito dalla legge, il crimine, quello. Poi l'altra cosa era sulla musica e la lettura, nel senso che non sono molto d'accordo che la lettura entri molto di più, la musica entri molto di più al cervello, comunque di più al cuore, perché alla fine uno quando sta male, io ho fatto, mi ricordo ancora dell'esame di terza media che ho portato la musica malinconica, triste, insomma, dove dicevo che uno alla fine quando è triste tende di più ad ascoltare della musica sempre triste, per comunque stare in quel mood, e non va alla ricerca alla fine di andare a leggere un fa? Libro. Perché lo fa? Perché comunque ascoltare, sì, ok, ascoltare è molto diverso da leggere, nel senso tu stai leggendo qualcosa e tu la stai... Tu ascolti la musica triste quando sei triste? Personalmente per, sì. Perché fai questo? Perché l'autore è riuscito a rappresentare la tua emozione in quella maniera così intensa che tu ti ci riconosci. Cioè, tu ti riconosci in quell'opera d'arte, cioè ti specchi. Tu ti specchi, tu diventi quello. Ed è questo che ti colpisce, ed è questo il motivo per il quale tu, diciamo, tendi ad ascoltare. Perché l'autore è stato talmente forte, talmente bravo, che è riuscito a costruire, diciamo, sì, il tuo specchio, insomma, a rappresentare la tua emozione. E riconoscendoti nell'opera d'arte dell'autore, l'autore si riconosce a sua volta in te. Cioè, diventi la parte di quel tutto che lui voleva rappresentare, insomma. È una forma di condivisione, una forma di empatia o simpatia, che dir si voglia. Poi simpatia, mo, insomma, tutti lo sa, però simpatia deriva dal greco, vuol dire soffrire insieme, per esempio. Non vuol dire essere allegri insieme, vuol dire soffrire insieme. Ed è quello che tu cogli quando ascolti. Sì, secondo me, poi magari qualcun altro potrebbe non essere d'accordo. Raff, posso spararti una super cazzola? A voglia. Noi siamo qua apposta, che noi ci piace assai a spararci. Un saluto, che andiamo. Ciao Ibra, è stato un piacere averti. Ci vediamo a scuola. Sì, ci ciao, vediamo tutti. Lunedì. Ciao. Bella Ibra, ciao. Ciao ragazzi. Dimmi. Detto che abbiamo parlato di linguaggio, delle altre forme d'arte, abbiamo detto che trovo una correlazione tra il fatto che il linguaggio si sia detto come la forma d'arte che l'uomo ha scelto per come via prioritaria per mettersi in comunità, per sviluppare quella che è venuta più naturale per mettersi in comunità. Abbiamo parlato di perdita della parola che bisognerebbe riacquistare per potersi poi riunire, no? La cosa che manca al giorno d'oggi. Quindi a me viene da dire che il linguaggio, il ruolo che ha il linguaggio rispetto alle altre forme d'arte è quella di essere la più naturale, perché quella, la forma d'arte ha energia potenziale minore, quella che ci viene più naturale per comunicare, per organizzarci. Quindi questo secondo me è il ruolo che ha, quello che intendevi tu col ruolo della lettura rispetto a... Beh sì, insomma, siamo scimmie parlanti, insomma. No. Abbiamo scelto. E poi c'è quella che funziona tutta la scelta, sì. Sì. Che poi sia il punto di minimo, il punto di massimo, perché quello più difficile, le altre cose ci verrebbero più naturali, ma No, beh, penso che sia, sai, noi, cioè, lui, Tommaso prima poneva la questione, cioè, quasi come se volesse dire come possiamo comunicare senza linguaggio. Che cazzo dobbiamo comunicare senza linguaggio? No, è più difficile. Possiamo, no, cioè, è evidente che io non posso comunicare, cioè, è più semplice comunicare l'affetto e l'amore che provo per la mia compagna e il mio compagno in mille altre maniere, ma se io devo, io e te dobbiamo fare qualsiasi cosa, ma anche io e te mo suoniamo, tu suoni il basso e la batteria, ok, quanti giri di questo ce lo vogliamo dire, cioè pure sì, suoniamo, sì, cioè, nel senso, per cui è, io non, cioè, ecco, l'impensabile per me è l'assenza del linguaggio. Cioè, non riesco a, anche vabbè, perché il pensiero e la scrittura, insomma, no, viaggiano. Non saprei dirti se un mondo senza linguaggio è distopico o utopico. Sincero. Secondo me è distopico, perché io sono una scimmia che parla, però. Se ci capissimo senza parlare. No, quelle sono fricchettonate. No, ma Gaia, Gaia voglia, Gaia, lui, Gaia ti preti, stende un tappetone di rosso di 10 chilometri, ma sì, perché basta uno sguardo, basta uno sguardo per capirci che invece è vero, c'è anche questo. Domandina, ma senti, ma sta storia distopica, sì, nasce perché non ce ne sono tanti, tra virgolette, come noi, o perché c'è una causa comune a tutti, che anche se sono tutti empatici, tutti buoni, ci sta una forza superiore che comunque ti mette il bastone tra le ruote? Allora, io penso che... Scusate. Io penso che la forza superiore che insomma, che alimenta, che la causa, diciamo, fondamentale di, della critica, insomma, che è una importantissima attività che serve per cambiare le cose, per cambiare il mondo. Penso che la causa sia la volontà di potenza, insomma, la trasvalutazione di tutti i valori. Questa è la causa. Cioè, secondo me a un certo punto Nietzsche e Marx si incontrano, loro potrebbero anche averlo, cioè, disconosciuto, ma a me non me ne frega niente. Io penso che Marx, cioè, chi ha spinto Marx a sviluppare il suo genio totale, indiscutibile, è la volontà di potenza che sta alla base del discorso di Marx. Non è mai esistita una società che ha vissuto nel bene, nella leggerezza, nella pace. Però tante cose noi non le sappiamo. Quindi questo è solito un ennesimo, allora, situazione, allora, che ti mette però, alla prova la società. Però aspetta un attimo, dunque, però noi, lei appunto... Posso dire una cazzata d'archeologo, scusate? Certo! Allora, io volevo appunto, diciamo, risponderti in questa maniera. Non lo sappiamo, non lo possiamo dire, cioè possiamo, no, dire come per dire che ci sono sempre guerre, cioè massacri da tutte le parti, cioè. Allora, noi sappiamo solo che la storia comincia, credo, 5.000 anni fa, cioè la storia comincia con la scrittura, insomma, 4-5.000 anni fa, insomma, e da quando esiste la storia, la storia è storia di invasioni, massacri, insomma. Tacito lo diceva, lui era romano, diceva i romani sono dei predatori del cazzo, assassini, fanno un deserto, lo chiamano pace, cioè, quindi Tacito già da Mu che l'ha detto queste cose, cioè. Naturalmente però il genere umano non è nato 6.000 anni fa, cioè l'essere umano esiste più o meno come siamo noi da qualche centinaio di migliaia di anni, insomma, per cui noi non sappiamo quasi nulla di quello, di come erano organizzate, diciamo, le comunità di esseri umani e come sviluppavano la solidarietà che è diciamo il collante delle società, cioè il collante di una società. La solidarietà non è la competizione, questo è il collante, però è solidarietà di un gruppo che comunque si contrappone ad un esterno, quindi la violenza fa già parte di un sistema costituito, certo, però diciamo se io guardo questa comunità al suo interno vedo che ci sono dei rapporti solidaristici, certo. E quindi è questo che la tiene insieme, che fa da coesione. Naturalmente cercare di capire che succedeva fra gli esseri umani 15.000 anni fa, no, 20.000 anni fa, ci sono gli archeologi, quelli come Elisabetta studia e non so che cosa ha scoperto, non so se hanno scoperto cose interessanti. La questione qual è? La questione è che comunque noi abbiamo... Non ho capito. Trovavo solo la trine, però questo è un capitolo triste della vita. No, no. La trine. Trovava solo la trine. Cioè, è l'unica cosa che conosciamo. Resta il fatto che comunque da 6.000 anni a questa parte gli esseri umani hanno trucidato gli altri, e questo è quello che di fronte al quale a cui ci siamo trovati. L'etnocidio proprio storico non esiste, non è vero. Nonostante la tristezza della situazione in cui viviamo, appunto, per il linguaggio, eccetera, eccetera, però abbiamo la fortuna di accompagnare, cioè di essere dentro una profonda innovazione degli studi etnoantropologici che ci leva tante certezze che sono le certezze della società costituita, non sono le nostre, e che mostra come nel divenire della specie umana si siano date tante possibilità, alcune estremamente interessanti, certo non il paradiso in terra, non la società pacificata, no, però tanti modi diversi di organizzare l'attività produttiva, le relazioni tra i generi, le relazioni tra i clan. Penso soltanto ai lavori di James Scott, ma anche all'ultimo librone di Graeber e del suo amico archeologo. Ecco, lì c'è proprio squadernato l'intero campo delle possibilità dell'umano in un arco temporale molto lungo, per cui è vero, 2000 anni cioè non sono niente, però sono anche una cagatina di mosca rispetto alle potenzialità e alle traversie, perché poi tante storie sono andate a finire male, no? Anche uno degli aspetti che a me sono piaciuti di più del libro di Scott sull'origine dell'agricoltura è che lui non fa l'apologia di nessuno, ma ne mostra anche i limiti, no? Però queste vite alternative ci sono state, gli stati hanno penato fatica a distruggerle, e comunque sia l'Homo economicus è emerso a un certo punto, te l'ha fatto passare come la natura dell'uomo, ma gli studi risultano dire. Però capito, sono sempre ipotesi, cioè tu dopo un certo no, perché se non puoi parlare di certezza, però. No, certezza. Non puoi parlare mai di certezza per quanto concerne una civiltà che non ti ha lasciato, anche quando ti ha lasciato scritto qualcosa. Certo. Ma se non ti ha lasciato scritto niente, tu la certezza matematica che è stato così, non puoi dirlo. Cioè ci sono studi più recenti, per esempio, che mettono in dubbio anche il fatto che le donne si occupassero della prole, ma magari avevano la struttura fisica per cacciare, quindi cioè tu non puoi sapere che cavolo succedeva durante la preistoria, non puoi dire era così, abbiamo la certezza, non ce l'abbiamo, certo, ce l'abbiamo. Però è la scienza tradizionale che afferma di avere delle certezze, anche solo il fatto di mettere in dubbio queste certezze che poi portano al fatto che sostanzialmente bisogna andare a sgobbare, no? Il succo degli studi storici è cos'è? Che bisogna andare a sgobbare, il succo della storia della filosofia è che bisogna andare a sgobbare, l'etnologia conferma che bisogna andare a sgobbare, no? Solo il fatto di riuscire a incrinare queste certezze che sono l'ideologia del nostro tempo, per me è importante. Poi come vivessero davvero alla fine sono anche carti loro, nel senso sono, però almeno non, non ci, le loro vite passate non ci restituiscono l'immagine dei padroni di oggi, ecco già questo, siccome dico oh ma cos'è questa qui, non si è mai vista da nessuna parte, è un'utopia, no, è sempre andata così, no, veramente è la vostra storia che è un pezzettino così dell'esperienza umana. Sai che cos'è? Che comunque alla fine, no, cioè, probabilmente dico una cazzata perché è anche un po' più, però i resti fondamentali che noi abbiamo, no? Cioè i primi resti che noi possiamo in qualche maniera interrogare, interpretare, comunque ci restituiscono delle strutture di potere. Cioè ci restituiscono, che ne so, il palazzo, ci restituiscono. Se tu trovi, se tu trovi delle, chi contava di meno in una società, ma se tu trovi, se tu trovi per un bel pezzo del, essendo fatto proprio da una, anche da un archeologo insieme a un antropologo, c'è una grossa attenzione ai resti proprio fisici. Allora, se tu non in un paesino ma in una grande città, in una grande città non trovi il palazzo e trovi tutte case grosso modo uguali, vuol dire che lì il palazzo non c'era, no? E se una, d'accordo, sarà l'eccezione, ma se ne trovi 50, vuol dire che 50 gruppi umani che poi magari stanno in continenti diversi, eccetera, eccetera, non c'era il palazzo, che è la struttura della trascendenza del potere. Non ho capito. In realtà quello che sta succedendo è probabilmente la nostra comunità, non a caso qualcuno la città del legno, cioè quella che c'era prima era città del legno, perché era biodegradabile, tutto quello che loro producevano parte la loro, era biodegradabile, quindi non lo troveremo mai, non avremo mai le diverse. No, però anche cioè, dove ci sono fondazioni, cioè, voglio dire, ci sono tanti siti che conservano fondazioni molto riconoscibili, no? In alcune c'è effettivamente la materializzazione della pietra delle strutture di produzione, che sono le case e poi ci sono i fari. Sì. In altri invece non c'è sto cazzo di palazzo del potere, non c'è il grande tempio. È stata una